Arcangela Tarabotti, L'inferno monacale. Libro primo. Ben furono ragionevoli le profetiche lacrime e le dolorose lamentazioni con le quali Geremia si dolse delle future rovine della misera Gerusalemme, però con non meno lacrimosi gemiti merita ad essere compianta l'infelicità compatibile di quelle anime che, non solo imprigionate in un corpo, provano gli infortuni comuni a tutta l'umanità, ma hanno, per tormento loro particolare, la carcere d'un monastero in cui sono forzatamente et innocentemente condonate a patir eterno martir di pene, che per essere tale ha ragione può chiamarsi un inferno. Sia quella mestissimamente compatendo, ei disse, plorans ploravi in nocte, et lacrime eius in maxillis eius non est qui consuletur eam. Di queste, con medemi accenti, dovrian essere esclamate le tormentose miserie. Piangono la notte, anzi continuamente stampano con le correnti lacrime sulle guance solchi dolorosi, né ritrovano chi voglia o possa consolarle. Chissà, forse Geremia previde, molti secoli anticipati, gli imminenti precipizi che sovrastano alla Gerusalemme di tante anime e s'affisse dell'errore universale, accennando ciò che era per succedere in esterminio di quelle infelici che, fatte monache senza essere chiamate da Dio, son prive di ogni bene e bersaglio di ogni mala fortuna, e che, dopo tanti patimenti e sciagure, avranno forse un più doloroso e sfortunato fine. L'avarizia e tirannia dei padri, con la semplicità, ignoranza e obbedienza intempestiva delle figlie, partoriscono queste conseguenze deplorabili. E perché non tutte sono poste nell'inferno dei viventi da una stessa causa, così diverse sono le maniere con che restano ingannate, poiché la malizia degli uomini non lascia fraude che non eserciti in questo maneggio, quelle monache forzate, anco esse che invecchiate sono vicine a finir con la vita e i tormenti temporali, usano ogni arte a soddisfazione dei parenti per rapir l'anime delle innocenti e semplici giovanette e unirsele nei crucci della religione, incontando ed intrecciando le più favolose menzogne che da niun famoso e perito poeta siano mai state macchinate. Ben sanno queste che solacium est miseri socius habere penarum. Quella medesima stanza, che elle per la tirannia paterna provano un esecrabile inferno, viene da loro descritta piena di delizie di paradiso. Sanno con tale arte mentire che, mascherando da verità la bugia, imitano sino il perfido sesso virile e fanno apparire che fuori dei chiostri non si trovi felicità e con lusinghe accomodate alla età delle fanciulle, dolcemente le invitano a quel visco al quale, appigliate l'incaute, mai più in eterno vogliono liberarsi. Alle bambine di poca età fingono luoghi solacevoli e poco differenti dal paradiso terrestre, sino ingannandole con far vedere loro albori sui quali, avendo innestati confetti e frutti di zucchero, la puerile semplicità si dà a credere che gli orti dei monasteri producono dolcezza e soavità. Eppure nei nostri giardini non è abbondanza d'altro che di spine, di tribolazioni e di infelicità. Alle più provette promettono allettamento di gioco, disobblighi dai lavori e lautezze dei cibi. Alle giovani più mature promettono gran libertà, ma per l'ingresso predican loro vaghezze de abitazioni, comodi da stanze, mense laute. Cose che poi altro non han di vero, che la sola impression fatta dalla falsa relazione di quelle vecchie, le quali preferiscono le promesse dei mentitori congiunti e le entrate di una ben misera dote al precipizio di un'anima redenta dal preziosissimo sangue di Cristo e alla passion di mente e continuo tormento che consegue all'infelice, non coperte da abiti religiosi, ma legate d'indissolubili catene. Tali sono gli inganni tessuti da questi tiranni, avari di poco danaro, ma prodighi dell'altrui libertà, quali, invece di prudenti discorsi, dovriano far spiegare alle destinate da loro, ai chiostri, le convenienze del loro debito e farle insegnare quelle virtù che dovrebbero risiedere in una vera religiosa. Ma in contrapposto, Per allettarle somministrano loro un orgoglioso vento di superbia con dire: infelice colei che oserà di proferirsi contro una sola parola, tua zia ti sarà più che madre. Invece di intimar loro un rigoroso silenzio, le asseriscono che potranno gracciare a suo talento. Non mancano provvisioni di balli, canti, suoni, mascherate e colazioni, e piuttosto che obbligare la loro memoria alle meditazioni sopra le vite dei santi, i bagordi e feste da celebrarsi nella solennità di San Giovanni e San Martino, si raccordano come precetti irrefragabili. Dove che le semplicette, quando sperano di trovare un teatro di delizie, s'accorgano d'essere entrate in una cloaca di immondizie e di incomodità, non meno per la corporale che per la spirituale vita. Oh Dio, con quanta ragione ponno le misere ingannate parlando con Sua Divina Maestà proferir quelle parole, naraverunt mihi iniqui fabulationes, sed non lex tua. Le contenzioni poi che succedono fra gli afraghi, padri delle malnate, e le monache, sono inenarrabili, rassembrano due cani arrabbiati di fame che combattono del cibo. L'uno tiene ben ristretta la borsa a ciò nella celebrazione dei funerali della figlia, che i brama di seppellire, neppur un solo danaro malamente si spenda. Le altre, ingenue, buona parte di loro vogliono s'aggiustarsi della dote, ma però con avvantaggio dei parenti che, essendo tiranni, in ogni conto vanno sminuendo il tutto, con eccesso che esse, per non perdere anche il poco a lor grazia, insieme s'acchetano e ricevono nei loro congressi quelle tali che, se non sono ben provvedute di simulata adulazione per coprire i mondani pensieri che le tormentano, possono prepararsi per essere gettate in un'ardente fornace. Ma questa non è una fornace di Babilonia come quella di tre fanciulli, nella quale, benedicendo il Dio e protette dallo scudo della fede, accada di potersi liberare da tante lingue infocate, che con fiamme di detrazione e rimproveri abbruciano la reputazione e buona fama dell'innocente, ma involontaria religiosa. Bene parlava per esperienza il santo profeta che, offeso da lingue serpentine, a queste non dissimili, conosceva quanto sia vero che non si trova riparo contro una mordace favella. Quid detur tibi aut quid apponatur tibi ad linguam dolosam? Dall'offesi di sì taglienti e infestanti rasori, tutta l'innocenza e integrità di Cristo non bastò a schermirsi. Ora io qui non entro nelle colpe con che queste maschere religiose, fatte non da Dio ma da diavoli umanati, aggravano l'altrui candore. Non discorro delle parole motteggiatrici, nel definito affetto con che procurano di penetrare negli altrui occulti pensieri, non solo per nutrire la loro mente curiosa, ma anche per insidiare a suo tempo, già che è troppo coperta, l'anima. Anzi, operazioni così vili sono imperscrutabili ad un animo sincero. Gli anni, i lustri, i secoli interi, queste astute e malvagie doppiezze causate dalla sfacciataggine maschile, stanno nascoste all'ingenuità di chi vive con leggi naturali di un genio purissimo e ignorante di quell'arte inumana insegnata da Tiberio e che sarebbe necessaria in queste diaboliche scuole inventate dagli uomini. Qui nescit fingere, nescit vivere. Infelice colei che in cotesti luoghi effettivamente pronuncia con sincerità il suo sentimento. Chi non dissimula viene sempre trafitta da acutissime punture, e la maggior parte di queste sfingi sono di quelle dei quali, parlando Geremia, disse: in ore suo pacem, cum amico, loquitur, et occulte ponit ei insidias. Viene dall'avarizia degli uomini consignata alle voraci fiamme di quest'abisso di cui parlo, taluna che non eccede l'anno nono di sua età, onde non è poi maraviglia se, mentre così tenera e pura, resti ingannata e tradita e, per così dire, rimanga infelicemente legata dormendo. L'inobbediente Giona, per non adempire gli auspici divini, fattosi salva ad una nave, procurava di fuggire l'esecuzione dei celesti comandi, quando il mare, irritato, cangiata la calma in orrida tempesta e sollevato il piano delle acque in altissimi monti di onde superbe, mostrava voler vendicare lo sprezzo di quel profeta contro i precetti di Dio, i nocchieri. Sopra, presi dalla grave e terribile tempesta, intesero per oracolo celeste che per assicurarsi era necessario gettare nel mare il povero fuggitivo e se ne stava dormendo nella più ritirata parte della nave. Jonas descendit ad interiora navis e dormiebat sopore gravi. Nonostante che ci fosse a costoro ignoto peregrino, lo svegliarono ed esposero ciò che per la comune salute era necessario che si operassero. Non volsero all'improvviso e impiamente seppellirlo nell'onde, potendo farlo, ma con amica pietade, prima l'avvisorono a ciò quanto più improvviso, tanto più tormentoso non gli risultasse il precipizio, e fu ingoiato dall'immensa balena, nel cui ventre pianse l'errore, ne ottenne il perdono. Quell'istesso mostro, che pareva diventato suo sepolcro, il condusse sano e salvo al porto, e in quel loco assegnatogli da Dio con la predicazione. Così trattarono rozzi e villani naviganti con un passeggero incognito e vile, ma non così trattano i crudeli padri con loro innocentissime figliole. Non le destano prima di seppellirle fra gli orrori di un tempestoso mare, anzi, fra l'onde di una stigia palude di un monasterio, che tali metamorfosi fanno le violenze. Usano loro con quelle misere, ma piuttosto le vanno applicando sonniferi per farle più gravamente addormentare. Levar loro la vita. Onde all'improvviso, anzi ingresso di quelle porte, non vedono scritto a lugubri caratteri: per me si va nella città dolente, per me si va nell'eterno dolore, per me si va tra la perduta gente. Qui vi incarcerate, non in chiostro santo e religioso, ma nelle viscere dell'interessata balena che non mai le vomita. Non arrivano al porto della destinata gloria, ma restano sommerse fra le disperazioni cagionatele dai padri, scelleratissimi, ed invece di immendarsi di quelle poche leggerezze commesse nella puerizia, avanzandosi nei maneggi e traffichi del mondo, diventano peggiori e si incamminano nell'offesa del loro mal, volentieri accettato sposo. Prima ingannate dai suoi più cari, poi da se medesime, stimano giusto e lecito il viver con poca decenza religiosa e non tantosto si destano dal letargo, che si ritrovano nel ventre di un chimerico e sozzo animale. E sebbene alle volontarie rassembra tabernacolo del Signore, queste, sul primo aprir degli occhi, spalancano anche la bocca nelle maledizioni contro le prime cause dei suoi eterni danni. Onde, per isfogo di loro ragionevoli passioni, raccontano l'una all'altra le loro disavventure, e taluna, che avrà letto libri poco convenienti a religiosa, racconta alle compagne ciò che le è capitato sotto gli occhi. Anzi, sovviemmi d'avere in tal proposito udito recitar quella stanza del veridico boiardo. Un altro sotto nome di Severo, ma con effetto di avaro e forfante, metteranne una frotta in monastero e vorrà che per forza elle sian sante. In cambio di dir salmi ed altri canti, biastemaran padre, madre, cielo e santi. Ad alcune non ancora generate, o esecrabile crudeltà paterna, vien da genitori assignato il monasterio per l'abitazione, onde non così tosto nate odono intonarsi all'orecchio il nome di monaca, anche prima che il sappino proferire. Invenzione diabolica, tradimento accorto e perfidi inganni che insegnano alle miserelle innocenti e semplici ad esprimere con lingua balbettante quel nome che a suo luogo e tempo è da loro così fervidamente aborrito. Queste, in tal guisa allevate, sempre con speciosi titoli e vocaboli di religione e di religiose totalmente dannosi, a credere che Iddio le voglia tali e per tali le abbia segnate, né s'accorgono che non sono state poste al mondo dissimili dalle maritate, ma che queste sono astuzie inventate per ingannarle. Così, poscia, pare che di propria volontà si inducano a quell'ingresso e telezion di vita che nel tempo della perfetta cognizione è da loro aborrita e odiata in paragon di morte. Ben poi tardi s'avvedono che raverunt in cogitationibus suis. Appunto, non dissimili da dannati all'inferno, quando non è più tempo di pentirsi, si stupiscono di sé medesime ed inquiete e smaniose agiatano fra irrimediabili dolori. Anzi, pazzamente incapaci che possa darsi una perpetuità di stanza, pare loro che quello che è purtroppo reale verità sia un sogno dal quale, però, le malaccorte non mai in eterno si destano. Alcuna, rimasta sotto la cura dei fratelli, per liberarsi dai disgusti che la opprimono e per fuggire la fatica di fare con esso loro l'ufficio di vil serva, proferisse un sì sforzato e prende un volontario esilio dal mondo. Ma con che core lo dica Dio, che è lo scrutatore delle amare passioni d'animi così travagliati? Concorrono per necessità, non per volontà, essendone taluna, benché rare, di spiriti vivi e di pensieri sollevati, a dar consenso alla funebre sentenza che le condanna a star sottoposte alle voglie altrui, e fa di mestiere che finga nell'elezione proprio quello che è sforzo dell'altrui tirannica disposizione, la temeraria crudeltà dei uomini inumani, e non mancano in sino di quelle che vengano chiuse con violenza dalla barbarie dei loro stessi padri, quali non arrossiscono a servirsi di gridi e di minacce, e con tutto che le figliole, spinte a forza nei chiostri, facciano gagliarda resistenza e si respingano nei seni dei propri, non so, si odica genitori o carnefici, dalla cui impietà, superate, con lacrime e lamenti pubblici e private, restano a lagnarsi e muovono Iddio a risentirsi di tale ingiustizia, con i castighi che fulmina nelle case dei malvagi. Pur dovriano quelle voci che arrivano al cielo penetrar l'orecchie dei superiori obbligati a sovvenir i giustamente offesi, nonché a sollevare gli innocentemente traditi. Ma la diversità degli interessi è quella che causa tanti disordini nel mondo. Si fingano questi tali per massima che i figlioli siano tenuti a star sottoposti in ogni affare all'obbedienza dei padri, ingannevoli et ingannati che sono. Mentita est iniquitas eorum. Devono obbedirsi i genitori nelle cose lecite e giuste, non nelle irragionevoli, oltre che nelle operazioni nostre, spettante al movimento interno della volontà, non è tenuta la creatura obbedire ad altri che al suo creatore. E così il padre non deve e non può maritar quella figlia che vuole essere vergine, né ella è tenuta aderire alla di lui determinazione e sforzo, sì come non può violentarla a monacarsi senza il concorso della di lei libera volontà. Il principe non ha potenza così superiore che possa far violenza all'interna elezione di quel gran filosofo. Errat, dice, si quis existimat servitutem in totum hominem discendere. Pars nam melior exempta est. Corpora obvia sunt. Et ad escritta dominis mens est sui iuris. E costoro, infelici d'anima e di corpo, ancora pretendono, per alimentare la loro ambizione, per ragione di stato ed onore mondano, di poter legittimamente tormentare in perpetua carcere l'innocenza delle loro figlie. Non punto pensano, scellerati, quanto siano veri i sentimenti spiegati dal poeta Terenzio in questi versi. Che non è cosa, per facile che sia, che difficile molto non riesca se farla controvoglia l'om s'invia. Non può già l'umana mente immaginarsi maggior scelleragine di quella che commettono questi padri, che fan quasi l'ofizio di Caronto nel traghettare le loro figlie a quelle rive oscure, alle quali può ragionevolmente darsi titolo di inferno per le serate monache, poiché viene dinegato lo sperarne mai più l'uscita. Se l'Evangelio dice «in inferno nulla est redenzio, et che ibit erit fletus et stridor dentium», queste son condizioni che rendono poco dissimile il monastero dagli abissi infernali. Non mai può sperarsene nella liberazione il fonte delle amarissime lacrime delle infelici è tanto abbondante che dà sembiante distanza dei dannati a quel loco ove sono miseramente condannate. Sì, come chiaramente dallo Spirito Santo il monastero le riesce paradiso, la cella un cielo, e ivi non manca lo stridor dei denti nelle mormorazioni e risse che fra loro corrano, oltre alle imprecazioni contro i congiunti che cagionorono, contro superiori che permisero, e sino contro gli stessi elementi che senza alterarsi furono presenti a così esecrando sacrilegio. Invedendosi legate in doppi lacci di rigori, e dal foro ecclesiastico e dal laico, a guisa di furibonde fere rattenute da nodi indissolubili, si van disperatamente ravvolgendo e t'affannando fra quei muri senza ritrarre altro frutto che d'un tormentosissimo cordoglio. Ponno ben ragionevolmente rivolti a Dio gridare «Libera me, quia e genus!» et pauper sum, et cor meum conturbatum est intra me. Ma non giovane queste voci. In quel giorno funesto, che nascano forzatamente alla religione, muoiono a quei mondani piaceri che non hanno mai assaggiati, si volgono mille e mille volte indietro a rimirare le paterne case, ora queste, ora quell'altra parte, rivolgendosi, contorcendosi, danno con gli interni movimenti a conoscere l'inquietudine che internamente le affligge. Misere, sventurate, non venute peraltro alla luce del mondo che per stare sempre, ancorché innocenti, fra le prigioni. Al secolo sono state, a guisa di tante danae, richiuse nelle stanze dove altri non puote vederle, che, come si suol dire, l'occhio del sole. E poscia passano ad una carcere più penosa, onde si van rivolgendo indietro, perché stimerebbero buona fortuna che avvenisse loro, come alla moglie di Lot, il trasformarsi in una statua di sale. Ma perché non sono uditi i loro giusti lamenti, vanno meste, a guisa di condannate al supplizio preparato loro da chi meno il dovrebbe, cioè dai suoi parenti più cari. Entrano finalmente in quella porta che apre le strade per trapassare dal cielo all'inferno, le quali a ciò i fedeli defunti non le calchino giornalmente. Serra. Lì vi dentro, sospinte dall'avarizia dei padri, la trovano anche nei chiostri, in quelle monache, però, che sono forzate anch'esse, accompagnata dall'interesse, da cui non mai va disgiunta, sicché bisogna che si armino come la bella psiche, se vogliono essere introdotte nella casa della da loro abominata religione, fa dei bisogni che portino i danari in bocca, cioè la dote, per pagare la nave che le riceve, che è il monastero. Abbino pur provvedute le mani di focacce melate per pascere i mostri trifauci d'abisso, perché se vanno scompagnate dai presenti, provano i morsi di qualche cagna interessata, come gli uomini che han più facce che argo non aveva occhi. Ben possono nel mestissimo ingegno, con energie appassionate, con canto lugubre e mortale, dolorosamente dire: circundederunt me, carnes, multi concilio, malvianzium ossedit me. Poi, che qui vi incontrano mille disprezzi, e tali interessate invenzioni dei parenti e congiunti son seguaci le derisioni e motteggiamenti contro quelle sfortunate, perché, coperte anche della veste dell'innocenza, non s'accorgano a qual vita infelice trapassano. Sento quivi da alcuno con tacito rimprovero contraddirmi, dicendo: con quanta instabilità, anzi contrarietà, costei discorre. Nella tirannia paterna, con lodi eccessive, esaltò il sesso donnesco, ed ora, di quando in quando, va biasimando le monache che pur son donne. Io non niego, ma neanche si può negar che la tirannia che gli uomini han posto così aspra a soffrirsi da quelle che a viva forza restan chiuse nei monasteri propri, che di benigne, tacite e care che erano per loro natura, a torto, irritate e offese, non divengono sdegnose e inviperite e perdano le naturali e proprie qualità, essendo loro dinegato l'operare secondo la generale inclinazione. E le son degne di scusa, ma indegni ne siete voi, come causa principale dei loro eccessi. Non interrompiamo però il determinato discorso, ma seguitiamo l'incominciato cammino. Mi sovviene che in leggendo un autore di stima grande, trovai che egli con una gentil comparazione assimiglia il mondo ad una scena i cui istrioni sono immortali, ed io non voglio partirmi dalla costui verace opinione, conoscendo che purtroppo tutte le umane azioni altro non sono che rappresentazioni che per lo più finiscono in una miserabile catastrofe. Nelle scene comiche il tutto è finto, sono finti i palazzi, finte le compagnie, finti i personaggi, né in loro ci ha di verità che un'ingannevole sembianza. Il mondo pure è una scena piena di inganni, ma i chiostri e gli abitanti in essi, per le maligne pretensioni degli uomini che si fa lecito riempirle di donne tradite più di ogni altra parte dell'universo, rappresentano un teatro in cui si recitano funestissime tragedie, poiché il fine di molte delle imprigionate è il perdere forse l'anima, che è di prezzo tale che non trova equivalente da pareggiarsele, mentre ha meritato d'essere comprata col tesoro immenso del sangue di Cristo. In queste scene ogni cosa è finto e il tutto è apparente e non reale per le forzate monache. Intendete, altro non va che cerimonie esterne. L'obbedienza è solo immaginaria e per una certa imitazione dell'essere citata dai santi che formorono le vere regole, le quali paiono osservate benché siano distanti da conventuali, perché ognuna di tali religiose vive a sua voglia con scandalo delle buone. Il silenzio va sol dipinto o scritto per elle nei cori, refettori e dormitori. Quivi, nei loro trattari, non mancano né una dimostrazione apparente per fingere l'imitazione del fondatore. Ma tutto è vanità, prospettiva ed ombra che inganna l'occhio di chi mira la scorza, senza penetrare il midollo, perché si effettuano forzatamente in qualche cosa la regola per non poter far di meno. Non vi concorre la volontà. Vediamo un poco con che arte e maniera la nuova comica monaca forzata viene introdotta nella tragedia della religione sotto nome di Sora. Prima che se li recida la chioma e che le se proferisca formidabile sentenza di non uscir mai più dall'eternità di un intricato labirinto, succedono contrasti e discordie circa la dote che se le deve consegnare. Si discorre della spesa in travestirla di lana ed effettuare i soliti riti e cerimonie necessarie. Quei genitori che nel maritare una figlia si rocchia dell'insidiata e mal condotta, non ebbero riguardo avere un dispendio, in aggiunta di una dote esorbitante di moltiplicare decine di migliaia di scudi, scialacquano in ogni occorrenza, per fare che la novella sposa pompeggi fra gli ori e fra le gemme. Non v'è artefice o mercadante che non si veda porre in scompiglio le drapperie più fine dalla costoro ardenza ed aggravarsi l'arche della loro professione. Le sete e i colori per contessere le vesti sono chiamati dalla Siria e da Melibeo. Il velluto, la felpa, che non è d'opera più che umana, è stimato indegno di coprire quelle membra che pur sono uscite da quel medesimo ventre di dove nacque l'altra sfortunata, che al suo dispetto, coperta di una veste lugubre e semplice, ad accompagnata da 900 a 1200, secondo l'uso dei luoghi miserabili, ducati, over 100 alle più ricche, con 50 di provisione all'anno per alimento, sente rimproverarsi dal genitore e ai parenti l'eccessiva e soverchia spesa. Nel riscuotere per questa povera annual provisione, l'abbandonate stillano sudore di sangue perché, oltre l'essere trascurato il tempo, viene stentatamente in più volte sborsata. E taluna, che spera e confida in qualche monaca conoscente, resta da lei, per interesse pubblico del monastero, defraudata del suo particolare soccorso. Eppur quella stessa, che maltratta questa in simili affari, opera diversamente per beneficio di quelle che a lei sono di sangue congiunte. O miserie, o tormenti veramente d'inferno per quelle infelici che senza nient'altra provisione che quella poca dote, povere nelle ricchezze dei travagli, vien a forza sigillate nei chiostri. Una poca veste di lana bianca o nero tinta in bruno vien loro consegnata da crudi genitori, appunto perché sia proporzionata a coprirsi di bruno in quell'ultimo oscuro giorno in che restano seppellite in un convento. Né di ciò contenta la tirannia di costoro, mormorano dei santi, perché negli ordini sottoposti alle loro regole non determinarono che le religiose dovessero essere vestite di peli di cammelli, come usavano gli antichi eremitani. Se dalla costoro scellerata volontà s'avesse liberamente a dipendere, stimerebbero bene che le frondi dell'albero che coprirono i nostri primi padri, per non ispendere un sol denaro, servissero di vestiti alle monache, o che a guisa di Sant'Onofrio non si coprissero d'altro velo che dei peli dati loro dalla natura, o come la bella discepola amante, che non portassero altro manto che i propri capelli, quando non avessero trovato invenzione di troncaglieli dalla testa in contrassegno della perpetua schiavitudine alla quale le condannano. Eppur, anche sospirano prima di risolversi a queste meccaniche spese. Così, aggiustate le determinazioni, le monache chiamate dalla badessa e dalla campanella si riducono in un capitolo, più per conformarsi al solito dell'uso che per imitazione di quel santo pastore che unisce la greggia da lui teneramente amata e di cui ella è ministra. Qui vi si propone la fanciulla che deve monacarsi e per soddisfare agli impii parenti, prima d'ogni altra cosa, si espongono i bisogni del monastero. Prima del discorrere dei difetti e dell'inclinazione della giovane ed esaminare i di lei mancamenti, e se la sia per riuscire con profitto nella vita religiosa, come vogliono i fondatori delle vere regole. Alla fine viene ballottata da tutte con parole, acclamata ed accettata dalle monache nel loro ordine. Posposto il zelo della religione e lo scopo della salute di quell'anima che pur dovrebbe anteporsi ad ogni altra cosa. Non sa riguardo al pianto di taluna che con le lacrime dà segno di entrare involontariamente in quel numero. L'applicazione di tali congregazioni, fatte claustrale degli interessi umani, non si estende a considerare il genio baldanzoso e la nascita vile di qualche altra di queste tali, non compatisce alla semplicità di quelle che, tenerelle d'età, non hanno cognizione bastevole per eleggersi più di una vita che di un'altra. Anzi, s'affrettano a imbavalarle prima che s'accorgano di essere imprigionate. Oh, che inganno! Eppur queste avrebbero bisogno d'andare trasferendo di giorno in giorno le determinazioni del loro consenso, come faceva Simonide, interrogato quale che cosa fosse Dio, che ciò ad esse, con vantaggio sopra di lui, accaderebbe, perché egli più s'applicava meno intendeva, e queste con l'applicazione verrebbero a sapere qual fosse lo stato monacale nel quale ciecamente vanno ad invilupparsi. Se una di queste sfortunate mostra da sentire col consenso al farsi religiosa, è una voce proferita dalla bocca. Ma l'intelletto, non anche maturo, coopera con la parte elettiva alla determinazione, onde in un medesimo tempo ella inganna se stessa e gli superiori, e quello che più importa, in un certo modo, lo stesso Dio, senza sua colpa. Pitagora era solito all'apparir del sole in Oriente di pregare i dei che gli concedessero la cognizione del suo proprio genio, e ad una tenera giovinetta sul nascente giorno dell'età sua vien tolto il pregare il Dio degli dei, perché le indirizzi il talento alla cognizione della propria abilità ed inclinazione. Ma si vuole che operi conforme non al proprio, ma all'altrui ingiustissimo genio, e che, senza lume di ragione, si ponga a camminare per le strade di Dio, che da San Paolo, tromba dello Spirito Santo, furono giudicate investigabili, quam incomprensibili assunt judicia eius, et investigabiles vias eius.